giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bar e ristoranti alle prese con le super bollette, conti attualmente all'esame dell'associazione di categoria prima di chiedere gli aiuti a fondo perduto in arrivo dalla regione, dai 1.000 ai 1.500 euro entro la fine dell'anno. Più di 700 domande per il bonus psicologo regionale, primo bilancio dell'iniziativa della regione che aiuta le famiglie a pagare le sedute da un professionista. Allarmante il dato dell'età, una domanda su quattro è stata fatta da ragazzi giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni. Si inaugura a Pordenone Sicam il Salone dei Componenti per l'industria del mobile, giunto alla decima edizione. Oltre 600 espositori da 33 paesi espongono i prodotti di tecnologia e design ad altissimo livello. Primi sopralluoghi dei tecnici del comune di Trieste sul tracciato della progettata Ovovia. Si è cominciato da Campo Romano sul Carso a Opicina, dove alcuni dei residenti hanno aperto la porta, mentre altri si sono rifiutati di farlo. Dai tetti verdi ai serbatoi contro le piene, le soluzioni idrauliche per preservare il territorio e le città dagli eventi climatici estremi sempre più frequenti. Un esperto ai nostri microfoni. I 30 anni sul palcoscenico dell'Accademia della Follia, la compagnia teatrale triestina composta da matti di mestiere e artisti per vocazione. Per celebrarli, un libro, un documentario e un nuovo spettacolo. Ancora buongiorno da Daniele Lettige e Francesca Vigori. In attesa di aiuti e per far fronte al caro bollette, che secondo la FIPE sono cresciute del 200% in un anno, sono molti gli esercenti che devono mettere mano ai risparmi o rateizzare i pagamenti. E c'è anche chi, come le gelaterie, ha deciso di chiudere la stagione in anticipo. I servizi. L'ultima bolletta arrivata ieri a Marco De Martine, titolare di una grossa gelateria in centro a Trieste, è una nuova doccia fredda, 5.324 euro per il mese di settembre, meno salata rispetto alle bollette di luglio e agosto, da 8.000 euro l'una, spesa prima di un intero anno, ci spiega, ma è comunque il doppio di quello che spendeva a settembre 2021 a parità di consumi. Racconta che per pagarla dovrà mettere mano ai risparmi e che ha già deciso di chiudere la stagione in anticipo perché è impossibile lavorare con bollette insostenibili, si sfoga. La sua, insieme a molte altre, è una delle situazioni in questi giorni sul tavolo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. L'associazione di categoria sta esaminando le ultime bollette degli esercenti prima di procedere con le domande per gli aiuti a fondo perduto in arrivo dalla Regione, dai 1.000 ai 1.500 euro direttamente sui loro conti correnti entro la fine dell'anno. Per almeno il 10% delle imprese però potrebbe essere già tardi, sottolinea il segretario provinciale della FIPE di Trieste, Fabrizio Ziberna, riferendosi a quanti sono sul punto di mollare. Dall'esame delle ultime bollette si conferma intanto il trend di aumenti, un altro 18% in più rispetto ad agosto e una media del più 200% sullo stesso periodo dell'anno precedente. In provincia, unica isola felice è il Mugesano, dove in virtù di un vecchio accordo con l'Enel gli aumenti sono più contenuti, osserva il portavoce della categoria, per il quale gli effetti in bolletta del calo del prezzo del gas di questi giorni, salvo nuovi interventi di sostegno del prossimo governo, non si vedranno prima della prossima primavera. Intanto il settore, dai bar ai ristoranti alle pizzerie, gelaterie e pasticcerie, cerca di resistere come può. Molti rateizzano, i più risparmiano in tutti i modi, senza per ora riversare gli aumenti sul prezzo dei prodotti, sottolinea ancora Ziberna, ma se si va avanti col caro bollette, aggiunge, non potrà essere così per sempre. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Costituire comunità energetiche e gruppi di acquisto comuni di pannelli solari o fotovoltaici e di accumulatori è la strategia di Confartigianato Udine per contrastare l'impennata dei prezzi dell'energia. Gli artigiani come i produttori di energia del futuro, non solo per se stessi, ma per le famiglie e per gli enti locali. Questa è la visione dietro le proposte che verranno presentate questa sera alla Giunta di Confartigianato Udine, l'organo esecutivo dell'associazione. In attesa dei provvedimenti attuativi del governo che dovrebbero sbloccare le comunità energetiche a livello comunale, al di là delle singole sperimentazioni degli ultimi anni, l'idea è quella di portarsi avanti con tre azioni concrete. La prima è una mappatura di tutti gli artigiani disposti a installare un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio capannone. Una stima provvisoria, realizzata prima di iniziare le interlocuzioni, ha fotografato 192 capannoni in provincia di Udine, 125 dei quali hanno già potenzialità ottimali per il progetto e 29 hanno già installato pannelli fotovoltaici. Ma restano da censire ancora altre 800 attività artigianali, quantomeno. La seconda azione concreta è la creazione di un gruppo tecnico di studio per la creazione di comunità energetiche che possa seguire tutti gli adempimenti burocratici del caso. La terza è il lancio di un gruppo d'acquisto per pannelli e accumulatori, così da avere più potere contrattuale per soci e famiglie dei soci di Confartigianato. Il tutto tramite la partnership con il CAEM, Consorzio Acquisti Energia e Multiutility, che raggruppa le imprese del Triveneto. Le collaborazioni tra mondo della produzione, famiglie e enti locali inizierebbero da Tarvisio, dall'ex autoporto di Coccau, dove c'è già l'accordo per installare il fotovoltaico su 5.000 metri quadrati di tetto. Il protocollo è stato firmato anche da Carnia Industrial Park. Una seconda linea di interlocuzioni riguarda alcuni comuni del Triangolo della Sedia, che metterebbero a disposizione delle aree per la creazione di parchi fotovoltaici per le esigenze del territorio. Anche Confartigianato Trieste ha messo a disposizione i tetti delle sue due sedi, una in centro, una a Muggia. Vogliamo capire i desiderata degli imprenditori, dice Elsa Bigai, direttore della società Servizi Confartigianato Udine. Ma vogliamo anche capire dove ci sono già da ora le migliori condizioni. Il momento è epocale, il messaggio è che bisogna fare tutti squadra, conclude Bigai, e noi ci siamo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono state presentate finora oltre 700 domande per il bonus psicologo, un'iniziativa messa in campo dalla Regione per aiutare le famiglie e i ragazzi a fronteggiare le situazioni di disagio e malessere provocate anche dalla pandemia. Per chi fosse interessato, il contributo è disponibile fino al 30 novembre. Il servizio. Gli effetti della pandemia non sono finiti e si fanno sentire nella psiche dei giovani. È quanto emerge dai dati relativi al bonus psicologo erogato dalla Regione, che ha stanziato 300.000 euro per aiutare le famiglie a fronteggiare le situazioni di disagio e malessere dei ragazzi, in molti casi provocate o enfatizzate dai confinamenti imposti dal lockdown e dalla didattica a distanza. Da quest'estate, il bonus è attivo dal 5 luglio, sono state presentate 702 domande e se ne possono accogliere ancora 631 entro il 30 novembre. Più della metà dei giovani manifesta problemi di ansia generalizzata, mentre il 13% lamentano problemi relazionali tra pari e il 12% segni di isolamento e ritiro sociale. La demotivazione e le difficoltà nella scuola riguardano l'11% dei ragazzi. Allarmante invece è il dato dell'età. Una domanda su quattro è stata fatta da ragazzi giovanissimi, cioè tra gli 11 e i 13 anni, mentre il 40%, poco meno della metà, sono compresi tra i 14 e i 16. Balza all'occhio anche la notevole differenza tra maschi e femmine. Le ragazze hanno presentato 3 domande su 4. Per ottenere il bonus è necessario presentarsi a un colloquio informativo gratuito con uno psicologo ARDIS presso una delle 4 sedi dell'agenzia regionale. Lo specialista, dopo aver valutato la domanda, darà alla famiglia il codice del bonus, che verrà poi consegnato allo psicologo prescelto per le 5 sedute previste. La Regione coprirà il 90% dei costi e il 10% rimanente, a carico della famiglia, può essere detratto. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo di Trieste, centro di riferimento regionale per la fibrosi cistica, si occuperà dell'esecuzione dei test di screening neonatale e dei successivi test di conferma diagnostica per la fibrosi cistica per tutti i nuovi nati in Friuli Venezia Giulia. Lo ha deliberato la Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. L'IRCCS avrà i compiti di coordinamento, monitoraggio e verifica periodica dell'efficacia ed efficienza del programma di screening neonatale della fibrosi cistica, della definizione diagnostica e presa in carico dei casi diagnosticati. L'importo stanziato ammonta a 112.000 euro. Con questo provvedimento si dà la possibilità all'IRCCS di implementare il programma di screening rivolto alla prevenzione primaria di questa malattia ereditaria, che colpisce circa un neonato su 2.500-2.700. I portatori sani della malattia costituiscono il 4% della popolazione. Gli effetti della patologia si ripercuotono in particolare sull'apparato respiratorio, su pancreas, fegato, intestino e apparato riproduttivo, in particolare nei maschi, determinando un impatto significativo sull'aspettativa di vita e sulla qualità della vita. Le 12.39 50 secondi, diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature a Trieste 19 gradi con mare calmo, con temperatura di 21 gradi, a Udine 20 gradi, a Pordenone a Gorizia 19, a Tolmezzo 19 gradi, a Forni di Sopra 18, a Piancavalle a Tarvisio 15 gradi, a Sappada 12, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 12 gradi, a Lignano 17 gradi e mezzo, a Grado 16. La temperatura del mare è di 19 gradi e 5 decimi. Ed ecco le previsioni per oggi pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso. Domani invece cielo sereno o poco nuvoloso con la possibilità di foschie e qualche locale nebbia di prima mattina sulla bassa pianura e la fascia lagunare. In serata su costa e zone orientali potrebbe soffiare borino con aria più secca nei bassi strati. Parte oggi a Pordenone SICAM, il salone internazionale di componenti e accessori per l'industria del mobile, ed è anche un'occasione per fare il punto sulla situazione del comparto. Con quasi 600 aziende espositrici da una trentina di paesi del mondo, apre oggi in fiera a Pordenone, prosegue sino a venerdì, SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti e Accessori per l'Industria del Mobile. L'organizzatrice è Carolina Giobbi. Ci attendiamo in questi 4 giorni di fiera circa 8.000 aziende visitanti, abbiamo ricevuto preregistrazioni da 130 paesi, quindi ci aspettiamo un'edizione molto internazionale. Un'occasione per fare il punto sull'andamento del mercato con i professionisti del settore, settore in salute ma in cui si intravedono segnali di rallentamento. Loris Battelle è titolare di un'azienda di Porcia specializzata in soluzioni per l'illuminazione. L'affluenza che abbiamo visto già questa mattina è molto interessante, non solo dai mercati europei ma anche da quelli internazionali. Il nostro mercato estero funziona molto bene, l'esportazione quota quasi per l'80% nella nostra azienda. In questi ultimi 2 anni il mercato è cresciuto molto. In questo momento vediamo comunque un rallentamento. Eleonora Nardo gestisce una storica azienda del mobile a Maron di Brugnera. Il continuo aumentare, incremento dei costi, prima di tutto l'energia, quindi i rincari dettati dal costo dell'energia, quindi il prodotto produrre costa molto di più. Questo sicuramente sta portando un momento di rallentamento. Mirko Tulisso è amministratore delegato di 2 aziende udinesi che producono ferramenta tecnica e accessori per il mobile da cucina. Fino adesso il mercato è stato molto positivo, dopo il Covid c'è stato un incremento a doppia cifra, sia dei volumi che dei fatturati. Attualmente stiamo percependo un inizio di rallentamento che soprattutto interesserà, credo, la parte iniziale del 2023. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Veniamo al dibattuto progetto dell'ovovia di Trieste. Questa mattina i tecnici del comune giunti a Opicina per verificare la fattibilità del tracciato hanno toccato con mano per la prima volta le perplessità di alcuni residenti, alcuni dei quali non hanno consentito l'accesso alle loro proprietà. Primi sopralluoghi lungo quello che dovrebbe essere il tracciato della nuova cabinovia nella zona di via Campo Romano sul Carso a Opicina. Sotto lo sguardo di alcuni manifestanti e residenti contrari all'opera, i tecnici incaricati dal comune hanno suonato i campanelli di alcune abitazioni, le cui pertinenze sono interessate dall'intervento. Qualcuno ha aperto, qualcuno no. Io sono raramente a casa. Mia figlia non vuole assolutamente aprire. Noi siamo cittadini, non sudditi. E loro vogliono fare i piloni dei 15 metri in zona ambientalistica. Per arrivare a cosa? Ma i triestini, i opicinesi... Io personalmente sono andato in città, adesso in bicicletta. Ecco, tutti quelli che parcheggiano le auto e prendono la 2 e la 4 in 10 minuti arrivano in città, in Piazza Oberdan, vicino alle zone lavorative. Uno che va a lavorare non si sveglierà mezz'ora prima per prendere l'ovovia. E i turisti, non abbiamo quella gran massa di turisti, non siamo né Venezia, né Firenze, né Roma. Non è proprio solo per il fatto che queste cose dovrebbero passare sopra la testa della gente, quindi rovinare l'esistenza e anche una vita di lavoro e di sacrifici per avere una casa, diciamo, in un posto decente, no? E il fatto che questa cosa si ripercuoterà sulle future generazioni come spese assurde di mantenimento, che dicevano già 350.000 euro al mese per mantenere una cosa che dovrebbe servire all'1,25, come dicono, del trasporto, dice, di persone che dovrebbero recarsi in città e prendere. Quindi dovrebbero vendere un 10.000 biglietti al giorno, 10.000 persone vanno su questa storia tutto il giorno, ogni giorno, mai più. Ai timori dei residenti, l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi risponde ribadendo che gli accessi vengono effettuati proprio a tutela delle proprietà, per definire il tracciato per il passaggio della cabinovia, e che non si tratta di un'imposizione dall'alto. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Con la crisi climatica, allagamenti ed esondazioni aumenteranno di frequenza. Un ingegnere idraulico ci ha spiegato come dovrebbero trasformarsi città e bacini fluviali per sostenere questi eventi estremi. Strade che dopo pochi minuti di pioggia diventano fiumi, fango, torrenti che esondano. I temporali di settembre, che hanno provocato danni in diverse zone della regione, hanno messo in luce il problema del dissesto idrogeologico. Un problema che con la crisi climatica diventa sempre più urgente da risolvere, visto che, gli scienziati sono concordi nel sottolinearlo, gli eventi climatici estremi saranno sempre più frequenti. È quindi necessario che le città si trasformino per evitare continui allagamenti. Una soluzione realizzabile nel medio periodo sarebbe intervenire sul sistema fognario per realizzare volumi di accumulo temporanei sotterranei. Matteo Nicolini, ingegnere idraulico e professore dell'Università di Udine. Sono manufatti in cemento armato che permettono di attenuare le piene. Le chiamiamo vasche di laminazione o vasche volano, da qualche decina di metri cubi fino a centinaia se non migliaia di metri cubi. Oppure possiamo anche favorire la realizzazione di dispositivi specificamente progettati per l'infiltrazione delle acque, quindi trincee drenanti, pozzi di infiltrazione, batterie di pozzi perdenti e pavimentazioni permeabili per favorire l'aliquota che viene persa per infiltrazione. Nel lungo periodo, attraverso piani regolatori aggiornati, si potrebbero ottenere grandi risultati con piccoli interventi diffusi, come la creazione di tetti verdi delle abitazioni per assorbire l'acqua piovana, cisterne di raccolta dell'acqua, cunette erbose e zone umide. Il discorso si complica invece fuori dai centri urbani. Contro le esondazioni di fiumi e torrenti bisogna ragionare a livello di bacino fluviale. Sul medio-lungo termine dobbiamo pianificare l'azione strutturale, che sono le opere idrauliche, per così dire classiche, quelle dell'ingegneria idraulica, le casse di espansione, le dighe per la laminazione delle piene, ma devono essere scelte in maniera oculata, così come scolmatori e diversivi. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Le squadre della stazione Valcellina e quelle del Veneto del soccorso alpino sono state impegnate tutta la notte, dal mezzanotte in poi, per soccorrere un escursionista di 34 anni di Treviso, disperso sulle Dolomiti friulane. La chiamata di soccorso è partita dal padre dell'escursionista, che aveva avuto l'ultimo contatto con il figlio alle 13:20 con un messaggio. Il giovane gli aveva detto che si trovava al rifugio Padova e che avrebbe proseguito fino al bivacco Perugini, per poi rientrare proprio al rifugio Padova. L'escursionista però non ha dato più notizie. I carabinieri hanno individuato l'ultima cella telefonica agganciata e poi si sono attivate le squadre di terra del soccorso alpino per perlustrare a piedi i due versanti della forcella. L'escursionista è stato trovato dalle squadre dei soccorritori al bivacco Perugini intorno alle 3:30 ed è rientrato a piedi assieme a loro verso il rifugio Pordenone e quindi a Cimolais, dove ha incontrato il padre. E alle 12:48 veniamo allo sport con il calcio. In Serie C il Pordenone ha perso in trasferta ieri sera a Mantova. La partita si è conclusa 2-1 per i padroni di casa. Si tratta della prima sconfitta fuori casa per i neroverdi. Il Mantova ha messo a segno una rete per tempo con De Francesco e Gerbaudo e ha dominato agilmente la partita. Al 44esimo Pinato ha segnato il momentaneo pari dei Ramarri, che però non sono riusciti a capitalizzare e nella seconda frazione hanno subito la pressione del Mantova. Prossimo appuntamento per i neroverdi dopodomani in casa alle 18:30 contro il Trento. Sentiamo ora le parole dell'allenatore Di Carlo. Noi siamo stati un po' lenti, abbiamo fatto tanti cross, però non siamo mai riusciti a trovare la giusta stoccata, si può dire, per far gol. Poi quando siamo riusciti, il portiere ha fatto qualche parata importante. Penso che Mantova alla fine, dai nostri errori e dalla loro bravura, hanno vinto una partita. Complimenti a Mantova, noi dobbiamo fare molto meglio se vogliamo portare a casa punti. Comunque l'avevamo rimessa in piedi sul 1-1, prendere con 2-1 con difesa schierata, un po' diciamo che per la nostra difesa che nell'ultimo periodo aveva fatto molto bene. Oggi secondo me abbiamo sbagliato un po' troppo sotto questo aspetto qua. Quindi ci ricarichiamo un po' le batterie, ci ricarichiamo un po' sotto l'aspetto motivazionale, perché dobbiamo affrontare il Trento, che è una partita difficilissima in casa nostra, però vogliamo subito riscattarci, perché questo gruppo che ha voglia di voler essere protagonista. Basket in carrozzina, la Castelvecchio Gradisca si aggiudica il 26esimo torneo internazionale Alpe Adria organizzato dalla Polisportiva Nord-Est a Gradisca di Sonso. Nella prima semifinale prevale l'Olympic Basket Verona, battendo il Kick Una Sana di Bihać. Nella seconda semifinale la Castelvecchio vince con il Canten. Nella finale per il primo posto i gradiscani vincono sui veronesi per 59-39. Terzo posto ai bosniaci di Bihać, quarto alla squadra austriaca. Ottimo l'esordio dell'allenatore Fagone e dei giocatori esordienti Vixon e Lamberti. Si definiscono matti di mestiere e artisti per vocazione. Sono i componenti dell'Accademia della Follia, la compagnia teatrale triestina che il 21 ottobre celebrerà il suo trentennale. Oggi sono stati svelati gli eventi in programma. Ce li racconta la direttrice artistica Cinzia Quintiliani. L'Accademia della Follia è una compagnia di teatro che nasce all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste nel 1992. La particolarità dell'Accademia della Follia è che non è mai rimasta chiusa nei luoghi in cui appunto si produceva, bensì la sua sfida era quella di dimostrare attraverso la propria arte, la propria bravura, di essere in grado di calpestare i teatri, tra virgolette, dei normali. Quali sono gli eventi previsti per il trentennale dell'Accademia della Follia? Siamo partiti l'anno scorso nel pensare quali potevano essere i prodotti che desideravamo far vedere al pubblico, anche forti del fatto che l'archivio di Claudio Misculin dell'Accademia della Follia è stato riconosciuto dalla sovrintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia ed è entrato nell'archivio di Stato, ci ha dato proprio quella forza, quella voglia di dire ok, allora facciamo un bel film documentario, pubblichiamo un libro, quindi ci sarà anche un libro inedito che verrà presentato il giorno 21 e che si chiama l'Accademia della Follia, un viaggio lungo 30 anni. E poi la sera ci sarà lo spettacolo teatrale, che è ciò che è, insomma, la nostra arte, che ci caratterizza, diciamo, in Italia e all'estero. Il debutto in sala Assicurazioni Generali, Noi sappiamo i nomi, in viaggio con Pierpaolo Pasolini. Una mostra che riunisce due tra gli artisti più grandi del Novecento nella Venezia Giulia, Zora Music e Max Fabiani, sarà visitabile fino al 26 novembre a Monfalcone. È un abbraccio simbolico tra due mondi che si guardano e si attraversano. Si intitola Sguardi transfrontalieri, la mostra su Zora Muzic e Max Fabiani, inaugurata a Monfalcone alla Galleria Comunale di Piazza Cavour. Un'iniziativa che mette fianco a fianco i due maggiori protagonisti dell'arte e dell'architettura del territorio. La sala principale è dedicata alla pittura forte ed evocativa di Muzic. Le opere sono tra le più importanti e racchiudono la chiave per comprendere la sua ispirazione. Lo spiega Daniele Danza, tra i curatori della mostra. Muzic è un artista che nasce sul Coglio, come lui dice, e che trova la propria affermazione professionale a Venezia. Tuttavia non dimenticherà mai le sue origini. Il Carso rientra nella sua poetica e influenzerà in maniera determinante la sua poetica. L'evento è di caratura internazionale ed entusiasma tutti i presenti, compresa la nipote del pittore, Vanda Muzic. Penso che questa sia una delle migliori mostre su Muzic e io le ho viste quasi tutte. Al piano superiore c'è lo spazio dedicato a Max Fabiani, architetto e urbanista, ma raccontato da una prospettiva insolita. La curatrice Patrizia Ugrin. Di Fabiani noi vediamo oggi la parte più intima, la parte diciamo che lui ha riservato a se stesso, i suoi divertimenti, i disegni, quindi non le grandi architetture, non i grandi lavori urbanistici per cui è famoso. La mostra, che vuole condurre l'appuntamento di Gorizia a Nova Gorizia 2025, resterà aperta fino al 26 novembre. Monfalcone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si intitola come una delle opere di Pasolini, Il sogno di una cosa, il documentario di Leonardo Ferrari Carissimi, dedicato al poeta e basato sulle ipotesi relative alla sua morte del pittore friulano Giuseppe Zigaina. Sarà presentato questa sera alla Festa del Cinema di Roma. Sentiamo un'anticipazione del regista. l'impronta del film è un'impronta documentaristica che però si rifà alla struttura del fintomentario, che ha avuto grande successo in America, diciamo sotto il genere di mockumentary. Cioè, che significa? Fondamentalmente racconta una storia vera attraverso persone reali e personaggi immaginari. La teoria è quella di Giuseppe Zigaina, friulano, pittore straordinario e anche autore straordinario, perché ha pubblicato con la Marsilio dei testi dove mette in chiaro quella che è la teoria che è trattata nel documentario. L'ipotesi è che Pasolini abbia profetizzato una morte rituale e che abbia lasciato una progressiva traccia all'interno della sua produzione artistica. Perché lo avrebbe fatto, secondo Zigaina? Innanzitutto si tratta, ci tengo a dire, di una teoria che ha le sue basi filologiche, cioè nel senso Zigaina fa un lavoro meticoloso, quindi non è una teoria che ha a che fare col complotto o non è una fantateoria. Tutto ciò parte sicuramente da una convinzione poetica e amicale, ma che è estremamente supportata da un'analisi attenta dei suoi testi. Sul perché l'abbia fatto è, diciamo, una sorta di sacralizzazione, cioè di trasformazione del personaggio artistico che è stato in una sorta di icona eterna, un modo di fissare nella memoria della storia umana un sacrificio sotto forma di ultima rappresentazione teatrale, no? È tutto per questa edizione redatta e condotta da Daniele Lettige e Francesca Vigori. Mauro Cumini e Bruno Montevecchi hanno curato la parte tecnica, Cristina Polselli ha collaborato in redazione. Grazie per l'attenzione, ancora buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.